Sera nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 6 gennaio, il sole in regione è sorto alle 7.50 e tramonterà alle 16.37. La giornata è lunga dunque 8 ore e 47 minuti. Rispetto alla più corta del 21 dicembre scorso abbiamo guadagnato 10 minuti esatti. Così adesso conoscete il valore di un pit di strie, quanto vuole il proverbio si siano allungate le giornate al di d'Epifanie. Oggi c'è luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. Da anni, anzi da sempre, anche il nostro Enos Costantini dice che i bovini sono stati fatti per mangiare erba e fieno e non altri miscugli moderni che li rendono sì più produttivi, ma ne snaturano caratteristiche e prodotti. È arrivata anche in Italia, dalla vicina Austria, la specialità tradizionale garantita dal bel nome di latte e fieno, che dovrebbe far riconvertire le diete per lo meno delle nostre bovine. Ne parliamo nel servizio di apertura per affrontare poi nella rubrica del bio l'annosa querela sull'utilizzo del rame in agricoltura che è stato di nuovo normato a livello comunitario. Seconda puntata a seguire dell'avventura dell'orto sociale di Stefano Montello per passare poi alla scheda sull'oleandro, una delle piante più belle e velenose che crescono anche dalle nostre parti. In fatto di sicurezza alimentare parleremo delle temperature ottimali cui vanno conservati i cibi e poi ci sarà una scheda ricchissima sull'importanza e bontà della pinza. Una comparazione dei prezzi dei mesi passati sarà al centro della rubrica dei mercati per passare infine alle previsioni del tempo con una breve nota di climatologia locale e al proverbio friulano della settimana. Iniziamo oggi con una STG, vediamo dopo di cosa si tratta, che porta un nome evocativo per quanto riguarda l'allevamento bovino in regione, latte e fieno. Ne parliamo con Marco Malison, che è il responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, a cui chiediamo subito, come vi abbiamo promesso, che cos'è un STG. L'acronimo STG sta per specialità tradizionale garantita. Ed è uno dei tre principali regimi di certificazione riconosciuti dall'Unione Europea nel settore agroalimentare. Volendo semplificare al massimo, la DOP, cioè la denominazione di origine protetta, si caratterizza principalmente per il luogo di origine della materia prima. L'IGP, indicazione geografica protetta, per il luogo dove avviene la trasformazione. L'STG, invece, non ha legami con il territorio di origine o di trasformazione, quanto piuttosto con le tecniche di produzione e di trasformazione che possono essere riprodotte sull'intero territorio dell'Unione Europea. Naturalmente il tutto deve essere descritto in un disciplinare di produzione e certificato da un soggetto terzo. L'STG latte fieno cosa prevede? Intanto ricordiamo che il riconoscimento comunitario è avvenuto con un regolamento di esecuzione della Commissione, il numero 304 del 2016, su proposta di una grossa associazione allevatoriale austriaca che raggruppa circa 8.000 produttori che rappresentano circa il 30% del latte raccolto in Austria. Detto questo, il disciplinare è tanto semplice quanto rigoroso. Nell'alimentazione delle vacche da latte sono consentiti esclusivamente l'erba da pascolo o da sfalcio nella stagione del foraggio fresco e il fieno nel periodo invernale. Questi foraggi devono rappresentare almeno il 75% della razione alimentare in termini di sostanza secca e la restante parte è rappresentata da granelle di cereali o leguminose, farine, crusche e pannelli di estrazione. E cosa è invece vietato? Anzitutto, per produrre l'STG latte fieno, gli animali non possono assolutamente mangiare insilati o altri foraggi fermentati, tra i quali per esempio il fieno umido stoccato in rotoballe a volte da film plastico. Sono vietati tutti gli alimenti umidi, i sottoprodotti dell'industria alimentare come le trebbie di birra, le borlande di distilleria o le polpe di bietola non disidratate. Inoltre tutti gli allevamenti devono essere rigorosamente OGM free. Infine, sulle superfici foraggere c'è anche il divieto di spandimento di fanghi di depurazione o acque reflue e deve essere praticata una lotta integrata alle malerbe infestanti e ai patogeni. Cosa ci si attende da questo STG? L'obiettivo dichiarato dai proponenti è sicuramente quello di migliorare le caratteristiche organolettiche dei formaggi grazie alla riduzione di specie microbiche che inevitabilmente si riscontrano negli ambienti dove vengono prodotti, stoccati e utilizzati foraggi insilati. Ma il disciplinare soddisfa anche obiettivi di sostenibilità ambientale e non a caso diversi produttori di latte fieno sono anche certificati bio. E in Friuli Venezia Giulia come è stata accolta questa iniziativa? Che io sappia, per ora solamente due sono i produttori indirizzati verso queste produzioni, ma su questo tema c'è un interesse crescente soprattutto tra i produttori che trasformano direttamente il proprio latte e vogliono valorizzare al massimo le sue qualità anche attraverso la vendita diretta. In un suo scritto antimodernista, un giorno Riedo Puppo scrisse: «Distruggi tutte le smachines, salva domeche dal solfato, quella del rame». Oggi è a rischio anche quella, ci dice tutto Cristina Micheloni per la rubrica del bio. No, non è a rischio, anzi la teniamo più a lungo perché la useremo un po' meno, quindi ci durerà molto di più anche la macchina dal solfato. Perché? Perché finalmente l'Unione Europea ha preso la decisione per cui l'uso del rame da un lato viene permesso ancora in agricoltura, nonostante sia chiaro che gli effetti avversi sul terreno vadano monitorati, vadano ridotti e vadano tenuti sotto controllo, ma ne riduce ulteriormente la quantità utilizzabile per ettaro e per anno. L'altra novità importante è che questa riduzione non vale solo per il biologico, come era già in vigore da molti anni, ma vale anche per il convenzionale. Perché nonostante la stampa generalista riporti il fatto che noi biologici siamo quelli che inquiniamo il terreno perché usiamo il rame, e che comunque abbiamo sempre avuto contingentato dal 2000 che c'è una riduzione e una quantità massima per il bio, nel convenzionale non solo si può utilizzare anche i ditiocarbamati e altri prodotti sistemici, ma dentro questi prodotti c'è anche il rame come coadiuvante. Quindi alla fine ne hanno usato molto di più in questi anni convenzionali che non i biologici. Ma bando alle polemiche, questo nuovo regolamento prevede una limitazione di 4 kg ettaro anno, che però vanno considerati come media su 7 anni. C'è un estremo bisogno in questo momento di passaggio dai 6 kg attuali del biologico ai 4 kg anno di assistenza tecnica, forse più che non di ricerca, perché anche lì insomma le cose stanno già andando avanti. Però vorrei ritornare un momento alla, non dico polemica, ma qualche nota di colore, perché negli ultimi giorni abbiamo letto sui giornali di una senatrice, ricercatrice, scienziata, una politico-scienziata, chiamiamola così, di chiara fama, che però ha una chiara fama in altri settori, non in quelli agricoli, che però si ostina a dare consigli, a sputare sentenze anche sul rame e sull'agricoltura di diversi tipi. Diciamo che sì, tutti pontificano su un po' di tutto, però se vogliamo veramente fare del bene a tutti, all'ambiente in primis, magari ognuno dicesse delle cose su quello che veramente sa e non su quello che sente dire. Seconda puntata oggi sull'esperienza dell'orto sociale del nostro Stefano Montello, che ci presenta il luogo e i suoi compari d'avventura. E così cominciai il lavoro in questa bizzarra fattoria sociale e per prima cosa ci assegnarono un luogo. Una vecchia casa colonica di proprietà pubblica, piuttosto fatiscente, che avremmo dovuto rendere quantomeno abitabile. Ci arrivai in un giorno freddo di nebbia e di gennaio, dove tutto era di una tristezza sconsolante. Il giardino aveva l'erba non falciata e il vecchio orto era una devastazione di rovi. A terra c'erano rifiuti, bottiglie vuote, scarponi spaiati, utensileria da cucina. Tutto quello che era appartenuto a uomini e donne che prima avevano vissuto lì. La prima cosa che pensai fu che in questo posto fosse successo qualcosa, una qualsiasi cosa, avrebbero potuto cercarmi per mesi, prima di trovarmi, decomposto. Ma mi feci coraggio ed entrai in casa, in quella che per un periodo non sapevo neppure quanto lungo sarebbe stata la nostra casa. Ma nostra di chi? Mia e dei due ragazzi, i miei due aspiranti contadini, che i servizi sociali mi avevano affidato, naturalmente. Due progetti di inclusione, due soggetti fragili. È così che mi li presentò l'assistente sociale. Progetti di inclusione. Lei fu molto affabile, carina, giovane, mora, capelli corti, piglio deciso. «Salve! Sono dei servizi», disse, e mi tese la mano. E io, KGB, Mossad, Stasi, Ovra, sono innocente, lo giuro. Ma lei non apprezzò la battuta scema e passammo le presentazioni. I due ragazzi, i miei due contadini, anzi i miei due progetti di inclusione, i miei due soggetti fragili, erano uno alto, magro e selvatico, mentre l'altro era piccolo, cicciottello, di sorriso buono. Più tardi, dopo averli conosciuti meglio, li soprannominai lo smilzo e l'affamato. Il primo si arrampicava sugli alberi con l'agilità di un giaguaro e non stava fermo un attimo, e il secondo mangiava panini clamorosi, parlava poco, ma ogni tanto riusciva anche a mettere in fila un discorso sensato. La casa, a parte il vecchio divano, era vuota e tutto era stato rovesciato all'esterno. Credo che fosse un estremo spregio per quel posto dove avevano lavorato centinaia di persone e che un ente pubblico aveva deciso di abbandonare, sfrattando da casa e lavoro gli ultimi suoi abitanti. È opinione comune che ciò che è di tutti in realtà non sia di nessuno. Rovesciare in giardino il contenuto dei cassetti della cucina non era un atto di negligenza o di sporcizia, ma un gesto simbolico, particolarmente stupido ma esemplare, per dire: tu, pubblico, mi cacci, mi cancelli, non hai più soldi per me, quindi trovati qualcuno disposto a ripulire. Trovarono noi, io, lo smilzo e l'affamato, il lungo, il corto e il paccioccone. È tra le piante più coreografiche che esistano, simbolo dell'armonia dell'universo, ma anche tra le essenze più velenose che ci siano, è l'oleandro che ora Antonino Daneluto mirabilmente ci descrive. Nell'Italia meridionale cresce spontaneamente in luoghi umidi e sassosi, specialmente lungo i corsi d'acqua. Invece nella nostra regione è coltivato per ornamento nei giardini e nei viali, spesso anche in vasi che abbelliscono esternamente le abitazioni. Parliamo dell'oleandro, nome scientifico Nerium oleander, elegante arbusto o alberello, sempreverde mediterraneo, alto pochi metri con foglie coriacee, intere, lanceolate, lunghe una decina di centimetri, opposte o spesso disposte a gruppi di tre. I vistosi fiori apicali, delicatamente profumati di mandorla amara, hanno corolla rosso-purpurea o rosea o bianca. I semi sono forniti di pappo, un'appendice rossastra leggera e piumosa che facilita la disseminazione per mezzo del vento. Tutta la pianta è considerata velenosa. Vi sono presenti diverse sostanze dotate di elevata attività farmacologica, fra le quali spiccano alcuni glucosidi cardioattivi ad azione simile a quella della digitale. L'impiego fitoterapico, però, è sconsigliato in quanto il contenuto dei principi attivi è assai variabile e conseguentemente il dosaggio risulta difficile e pericoloso. Per questo motivo non fa parte della medicina popolare che un tempo utilizzava con alto rischio le foglie come cardiotoniche e diuretiche. Si ritiene che 5 o più foglie utilizzate in tisane causino intossicazione grave, addirittura con esito mortale. Invece per uso esterno un impasto di sugna e foglie polverizzate era ritenuto utile contro la rogna. La tossicità dell'oleandro si manifesta anche respirando il fumo che si sprigiona dal suo legno che brucia. È accertato che alcuni soldati francesi impegnati nelle guerre napoleoniche utilizzarono rami di oleandro come spiedo per arrostire della carne. Dei 12 che se ne cibarono, purtroppo 8 morirono e 4 rimasero gravemente intossicati. Si sono verificati perfino casi di avvelenamento dovuto all'ingestione di chiocciole che, raccolte sotto l'oleandro, si erano cibate delle sue foglie. Le api che visitano i suoi fiori possono produrre miele benefico. La pianta era nota fin dall'antichità. Per le sue foglie, spesso raggruppate a tre, era considerata il simbolo dell'armonia dell'universo, composto da triadi. Nel Medioevo era diffusa la credenza che San Giuseppe si serviva di un bastone ricavato dall'oleandro, per cui la pianta prese anche il nome di mazza di San Giuseppe. Con Claudia Fontanini, responsabile dell'ufficio certificazione di qualità del Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia, continua la nostra rubrica Qualità e sicurezza sulle nostre tavole. Oggi ci parla della quarta chiave della sicurezza alimentare, che ha per titolo Tenete gli alimenti alla giusta temperatura. I microrganismi possono moltiplicarsi molto velocemente negli alimenti stoccati a temperatura ambiente. In condizioni favorevoli, una cellula batterica può infatti dividersi in 2 cellule figlie nel corso di circa 15 minuti. Da 2 diventeranno 4, da 4 16, e con questo ritmo in 6 ore saranno più di 16 milioni. I microrganismi non sono però in grado di moltiplicarsi a temperature troppo alte o troppo basse. La loro crescita può quindi essere rallentata o fermata tenendo gli alimenti alla giusta temperatura. Lasciare invece i cibi per troppo tempo nella zona di pericolo, cioè tra 5 e 60 gradi, è uno degli errori più comuni che si possono fare. Tutti gli alimenti cotti o deperibili vanno raffreddati rapidamente. Il frigorifero è il luogo più adatto per conservarli per brevi periodi, purché sia mantenuto pulito e alla giusta temperatura. Il cibo non va messo in frigorifero caldo per non aumentarne la temperatura. Il metodo più veloce per raffreddarlo è l'utilizzo dell'abbattitore di temperatura, un tempo impiegato solo nelle cucine professionali ma che oggi si sta diffondendo anche come elettrodomestico casalingo. Altre semplici soluzioni per velocizzare il raffreddamento possono essere: immergere la pentola col cibo caldo nel lavandino con acqua e ghiaccio, mettere gli alimenti in contenitori aperti nella prima fase di raffreddamento, porzionare grosse pezzature in parti più piccole, mettere gli alimenti in contenitori freddi, mescolare continuativamente i prodotti caldi liquidi. Se si tengono invece i cibi cotti al caldo prima di servirli, devono essere mantenuti bollenti. Bisogna infatti restare al di fuori di quella che abbiamo visto essere la zona di pericolo e quindi tenersi al di sopra dei 60 gradi. Ricordo infine di non scongelare i prodotti a temperatura ambiente. Lo scongelamento deve essere fatto in frigorifero, nel forno a microonde, nella posizione di scongelamento, o rapidamente mediante cottura o riscaldamento. Il fatto di essere cibo povero, miscellanea di avanzi e botta energetica l'ha resa famosa, con nomi e caratteristiche diverse in tutto il nord. È la pinza di cui oggi decanta le lodi Roberto Zottar. L'Epifania, che tutte le feste porta via, è anche il periodo di un dolce ancestrale fatto col pane comune raffermo, ma arricchito per propiziare abbondanza e prosperità. Pan e vin, la pinza sotto il camin. Pan e vin, la luganiga in tel cadin, la pinza sotto le bore, chi la appressa che il core. S'intonava, ma si usa ancora, il bagliore del falò nel Friuli occidentale. Descrive con accuratezza come era composta la cena tradizionale la sera del 5 di gennaio. Salsiccia, polenta, radicchio condito con le frisse e per finire la pinza cotta sotto la cenere, dolce immancabile anche nelle famiglie più povere. Questa torta rustica, dal tipico retaggio contadino, è presente in Friuli, nel Veneto e in alcune vallate del Trentino. Il suo nome, che è lo stesso del soffice dolce pasquale completamente diverso, si declina in pinza lungo il Livenza, in pinze lungo il Tagliamento, attraverso i vari pinza, pincia, pinze nella fascia di transizione. Nel Veneto viene anche chiamata pinza de Amarantega, cioè della Befana, o torta vilana. E nella zona di Vicenza, putana, nome quantomeno pittoresco, forse in riferimento al metodo di cottura e al fatto che accoglieva bene qualsiasi ingrediente pur di diventare apprezzabile. L'etimo di pinza è molto incerto, forse lo stesso di pizza, trattandosi di un dolce piuttosto basso dal verbo latino pinsere, battere, pigiare, infarcire. Essendo cucina popolare, le varianti sono tante quante le famiglie che la realizzano in base a ciò che avevano a disposizione, ma si possono raggruppare in due tipologie, una più consistente, più pesante e compatta, e l'altra a base di lievito madre, che potremmo dire meno gnocca. Gli ingredienti sono semplici, tipici della tradizione contadina, comunque oggi molto più ricchi che in passato. Vengono impastati insieme, a seconda delle ricette, pane raffermo, farine di frumento e di grano turco, latte, zucchero, uova, grigli di noce, fichi secchi, uva passa, canditi, ma anche zucca, mele, semi di finocchio strutto o perfino polenta. Un tempo si avvolgeva l'impasto in foglie di verza e si cuoceva sotto la cenere del focolare. Oggi, nell'era dei panettoni industriali, in cui un po' di saggezza contadina è rimasta, la pinza è anche un pretesto per dare destinazione agli avanzi di frutta secca, di cene e cenoni, e infatti un tempo si usava anche il grasso del musetto. Buona Epifania e buona pinza. Ed ora il microfono ad Amos D'Antoni per l'andamento dei mercati agricoli. In questa prima domenica del 2019 valutiamo l'andamento dei mercati agricoli con un contraddittorio tra i prezzi del 2017 e quelli del 2018. Il settore cerealicolo nel 2018 è stato dominato da una buona redditività, con una ripresa dei prezzi per l'orzo di circa 4 euro al quintale, 2 per il frumento e pochi spiccioli per il mais. Una flessione di circa 4 euro l'ha subita invece la soia. Nel comparto dei vitelli da ristallo, i pezzati rossi, blu belga, frisoni e bruni hanno avuto lievi perdite, mentre per le quotazioni delle vacche fine carriera c'è stato un discreto incremento. Anche nel settore suinicolo durante l'anno i mercati hanno avuto diverse variazioni. Al termine, i prezzi dei lattonzoli e grassi sono diminuiti di circa 20 centesimi il chilo, quelli nostrani sono rimasti invariati. Il comparto lattiero caseario, con montaggio fresco di 4-6 mesi e lo stagionato, hanno avuto rallentamenti con leggere perdite, anche se il settore ha evidenziato buoni consumi. Il prezzo del latte alla stalla invece da 36,50 centesimi del 2017 è passato a 37,50 con un aumento di un centesimo il litro, troppo poco per compensare l'intenso lavoro svolto dagli imprenditori zootecnici. Nel settore degli avicunicoli gran parte dei prodotti hanno flesso, sono aumentate le oche, i conigli e le uova. Nel comparto ittico gli acquisti delle famiglie sono cresciuti e i prezzi nel 2018 hanno subito un lieve incremento che varia dai 4 euro il chilo per branzini, orate, passere e calamari e 2 euro per sogliole, cappe sante e rombi. Per quanto riguarda la sezione dei foraggi, i prezzi non hanno registrato variazioni sostanziali. Si è avuta stabilità per la paglia e aumenti per l'erba medica e il fieno mazzengo di pianura. Nel settore dei prodotti ortofrutticoli, in insalata gentile, i cavoli, i pomodori, le patate, le mele golden sono aumentati di prezzo, mentre le arance e i kiwi sono rimasti stabili. Analizzando l'andamento agricolo dell'annata agraria appena conclusa, è stato rilevato che il 2018 ha segnato un incremento del valore dei prodotti nel carrello della spesa, ma non ha avuto di pari passo un aumento al produttore agricolo. E con il previsore dell'ARPA Osmer Livio Stefanuto diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Dicembre si è da poco concluso ed è stato un mese secco per la regione, date le scarsissime precipitazioni. Negli ultimi 4 anni è già la terza volta che ciò accade, dato che sia nel 2015 che nel 2016 si ebbero mesi di dicembre completamente secchi. Per ciò che riguarda le temperature, dopo una prima decade relativamente calda, le temperature sono scese in modo deciso nella seconda e terza, sono state nella media. Mese così ha avuto una temperatura media mensile in linea con la climatologia, interrompendo la successione di 8 mesi caldi che da aprile in poi hanno fatto sì che il 2018 risulti l'anno più caldo col 2014 in regione. Ad alta quota il primato rimane comunque quello del 2015. Rimane il fatto che gli anni caldi record appartengono all'ultimo quinquennio, in linea con quanto succede a livello europeo e mondiale. Gennaio è iniziato con tempo ancora secco e soleggiato e temperature nella norma o superiori, per poi farsi più freddo dal giorno 3 in montagna a causa di forti venti freddi da nord e dal 4 anche su pianura e costa, con temperature minime attorno ai -5-6 in pianura e di poco sopra lo zero sulla costa. In monti abbiamo avuto invece valori minimi in genere attorno ai -10. In questi giorni la presenza di un vasto anticiclone in Atlantico e di una depressione fredda sull'Europa orientale fanno fluire sull'Italia correnti settentrionali. Lunedì e martedì ristagnerà aria umida nei bassi strati e su pianura e costa avremo cielo da nuvoloso coperto con possibili piovigine sulle zone orientali. Sul Carso e sulle zone orientali non è escluso a tratti anche dal nevischio e locali formazioni di ghiaccio al suolo. In montagna invece avremo cielo poco nuvoloso variabile. Al mattino sulla costa potrà soffiare del borino, le minime saranno attorno allo zero in pianura e massime sui 6 gradi. Mercoledì un'altra depressione fredda scenderà dalla Scandinavia verso il sud Italia. Sulla nostra regione torneremo ad avere il sole, con cielo in genere poco nuvoloso per delle velature in quota, dove soffierà anche vento forte e freddo da nord. Le minime torneranno ovunque sotto lo zero, ma l'aria secca permetterà una forte escursione termica e le massime saliranno a 8-9 gradi. Da giovedì a sabato continuerà a dominare l'anticiclone delle Azzorre e le condizioni di tempo asciutto ed invernali non cambieranno, con temperature in pianura tra i -5 e i +8. Perciò, per gli aggiornamenti, vi consigliamo di seguire i prossimi bollettini che verranno emessi dallo Smerarpa. Termina qui la puntata, anche oggi vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano, Gennar sut vilan ric, ovvero se il mese di gennaio sarà asciutto avremo una buona annata che farà il villano, il contadino, ricco. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail è vitanecampi@rai.it, potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR della Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.